celestiali, come ora fa nei tuoi lunghi occhi ovali. Adesso vuoi, se fai per me l'occhio d'affermamento e mi piace serro palpitante, sei mia.